Buonasera e bentornati a questa 18ª puntata della 7ª stagione di Mighty FM. Chi vi parla? Da Radio Kairos presso il TPO di Bologna, come sempre Claudia Mighty Mau. Siamo entrati proprio a gamba tesa nella stagione dei festival. Abbiamo già iniziato con l'Elita ad aprile, poi con il Primavera Sound Festival di Porto, perché comunque insomma un conto andare in una città italiana, un conto magari organizzare un viaggio con prenotazioni, aerei, biglietti e pernottamenti per un posto un po' più lontano. Quindi l'abbiamo fatto, speriamo, con debito anticipo, in modo che magari qualcuno che magari era dubbioso, non conosceva il festival, grazie a noi si decida ad andarvi, come noi faremo. E siamo arrivati invece a un altro appuntamento festivaliero, sempre del classico, insomma, della primavera e più primaverile di un festival che si chiama Spring Attitude, proprio l'atteggiamento, l'attitudine alla primavera, ad affrontare questa stagione, a vivere questa stagione in un posto dove la primavera è sempre esplosiva e bellissima e profumata, ovvero Roma, la città eterna. Quest'anno si svolgerà da giovedì 19 a sabato 21. I posti sono un po' gli stessi, un po' sono cambiati. Ne parleremo nella prossima ora e mezza. Partiamo illustrando il programma e partiamo appunto da giovedì 19, e uno dei primi artisti che si esibirà, diciamo l'headliner della prima giornata, è Derwin Schlecker, ovvero Gold Panda. Panda, che il 27 maggio pubblicherà un nuovo album, Good Luck and Do Your Best. Questa è Time Eater, il cui video è stato già diffuso a fine febbraio. I suoni sono quelli che ormai conosciamo, sempre molto piacevoli, e il luogo in cui si esibirà sarà, come l'anno scorso già c'era, e io non c'ero perché sono arrivata il giorno dopo, invece quest'anno non voglio assolutamente perdermi l'occasione di vedere tutta la prima giornata di giovedì 19 al Maxi, ovvero al Museo Nazionale per le Arti del XXI secolo, progettato e realizzato dallo studio di Zaha Hadid, una delle menti, delle architette più geniali, visionarie dei nostri tempi, che qualche mese fa inaspettatamente anche lei se n'è andata. Per la prima giornata di Spring Attitude sarà la Red Bull Music Academy che presenta questa giornata di apertura, e gli spazi del Maxi sono tre: c'è il piazzale fuori, più usato per performance, videomapping, poi il lobby stage e l'auditorium. E Gold Panda naturalmente si esibirà nel lobby stage, il palco un po' principale, perché l'auditorium è invece un po' più per performance un po' più raccolte e particolari e anche sperimentali. Quindi alle 22:15 della prima giornata di Spring Attitude ci sarà Gold Panda. Che sarà preceduto alle 21 dagli Acid Arab. Si tratta di un duo francese, Guido Minsky e Hervé Carvalho, rispettivamente non proprio di origine francese, che nel 2015 hanno pubblicato un EP che si chiama Jazirat El Maghreb, ovvero l'isola dell'Occidente, l'Ovest, quello che viene appunto definito il Maghreb, ovvero quella parte del Nord Africa che comprende il Marocco, la Tunisia, la Tripolitania. E da questo EP ci sentiamo il pezzo che si chiama Afla. Ascoltando il duo francese Acid Arab, che fanno un tipo di musica che è assolutamente quello che è descritto dal nome del loro gruppo. Come dicevo, gli spazi del maxi sono tre: lobby stage, auditorium e il piazzale. Ad aprire la programmazione sarà sul lobby stage Raffaele Antoni Risarri. A dispetto dal nome sfacciatamente basco, si tratta invece di un musicista americano che nel 2015 ha pubblicato un lavoro dal titolo A Fragile Geography, molto ambient. Uno dei pezzi si chiama Secretly Wishing for Rain e io naturalmente ho pensato ad un collegamento con September di David Sylvian, che contiene proprio queste parole. Poi invece parallelamente, un po' più tardi, alle 20.45 all'auditorium ci sarà la performance di David Knod, barcellonese di base a Berlino. Ma noi per il momento rimaniamo al lobby stage, dove invece dopo l'apertura di Raffaele Antoni Risarri, dopo gli Acid Arab, dopo Gold Panda con cui abbiamo aperto questa trasmissione dedicata allo Spring Attitude Festival di Roma, dedicato alla musica elettronica ma anche alla sperimentazione, anche alle performance e a tutto quello che riguarda, diciamo, il digitale. Alle 23.30 partirà invece il DJ set dei Red Axis, richiestissimi, diciamo un nome hot della scena elettronica. Si tratta anche qui di un duo, come è classico, insomma, o uno è da solo o sono in due, sa perché. Vengono da Tel Aviv, Dolly Sadornik e Niv Arzi. Una delle ultimissime pubblicazioni è un EP del 2015 che si chiama Sun, My Sweet Sun, da cui ci ascoltiamo Scarrafone, Cockroach. Anzi, forse Cockroach è più blatta che scarafaggio. Questo è Cockroach dei Red Axis, duo israeliano che ci fornirà il DJ set a partire dalle 11:30 al Lobby Stage, ma come dicevo all'auditorium si parte con David Nod, si prosegue con due punti Absent, ovvero progetto strumentale poi elettronico parallelo di Ettore Bianconi, fratello di Francesco De Baustelle. A cui poi seguirà nel 23 una presenza veramente autorevole nella storia della musica elettronica, ovvero John Duncan, dal 1979, grande sperimentatore. Prima Los Angeles, poi Tokyo, poi Amsterdam, adesso vive in Italia e sarà anche il responsabile di un workshop, perché c'è comunque anche un programma di workshop. Il suo si chiama Red Sky. John Duncan, artista cross-mediale, considerato uno dei massimi interpreti della sperimentazione artistica negli ultimi decenni. Il 18 maggio, quindi alla vigilia dell'inizio del festival, dalle 15 alle 20, sarà protagonista di un workshop dal titolo Red Sky. In programma nell'Aula Magna dell'Accademia Rufa. Sarà una performance live collaborativa nel corso della quale i partecipanti vengono incoraggiati a esaminare e sviluppare in modo creativo situazioni e temi personali. E invece la sua personale performance sarà all'auditorium, a cui seguirà la cupezza veramente della musica proprio apocalittica di Giorgio Gigli. Presente già lo Spring Attitude, credo, un paio di edizioni fa, nella sala sotto dello Spazio 900. Invece in questo prossimo giovedì 19 maggio presenterà il suo ultimo lavoro, completamente, interamente, che si chiama The Right Place Where Not To Be, e sarà appunto una performance audiovisuale, poiché sarà accompagnata dai visual di Lord Z. Chiaramente un certo tipo di musica può veramente stimolare molto l'aspetto visivo. Questo pezzo si chiama Eve of Destruction. Come dicevo, anche lo spazio del piazzale sarà sfruttato per dei lavori di videomapping set specific a cura di Altera, un collettivo italiano che presenterà la Altera LVSS. Questo videomapping si potrà vedere a partire dalle 22, ma dalle 20 al mezzanotte e mezza, parallelamente, un altro gruppo, un altro collettivo dal nome Known presenterà Deep Dream. Sempre un'installazione, una creazione digitale. Ma uno degli eventi molto attesi, perché diciamo che abbiamo concluso idealmente la prima giornata che si svolgerà al Maxi e passiamo ad un altro spazio che diciamo sostituisce quello che era lo spazio del macro testaccio, della Pelanda, e che invece diventa proprio di fronte dal numero 4 di via Guidoreni, dove c'è il Maxi, al numero 7 dove ci sono le ex caserme Guidoreni, dove uno dei nomi più attesi è quello di Panta du Prince. E proprio quel giorno, venerdì 20 maggio, esce il suo album, quindi Panta du Prince Presents The Triad, che è il nome del suo ultimo album. Lui, Hendrik Weber, tedesco, lo seguiamo da anni. E da questo nuovo lavoro ci stiamo ascoltando il pezzo che ha già anticipato l'album a febbraio, ovvero The Winter Hymn. e quindi avremo l'onore di assistere alla performance di Panta du Prince proprio il giorno in cui il suo lavoro verrà svelato al mondo, anche se sappiamo che insomma nel mondo di internet, del web, in realtà i dischi iniziano a circolare molto prima. Nell'ex caserme Guido Reni gli spazi saranno 4. Uno il magazzino 1 dedicato all'installazione di Metaferrine, Echoes of the Crowd, visibile dalle 9:30 alle 3, perché è proprio alle 9:30 che parte la serata più o meno, anche con le performance di Otto Lab già presenti a Robot qualche tempo fa e anche loro responsabili di un workshop. E poi invece, diciamo, gli stage musicali sono il Main Stage e il Rizla Stage. Direi che in questi ultimi anni la Rizla e altre, insomma, compagnie di produzione di cartine per sigarette manufatte artigianali hanno avuto veramente un boom di fatturato enorme. Un altro nome che siamo molto curiosi di vedere è nel Rizla Stage, è Dorian Concept, nome d'arte del viennese Oliver Johnson. L'ultimo lavoro che siamo riusciti a rintracciare è Joined Hands del 2014, questo è Ann River MN, quindi penso sia Ann River, Minnesota. L'ordine di programmazione che stiamo seguendo non sappiamo bene chi l'abbia deciso della redazione, ma palchi, location, orari precisi possono essere consultati su springattitude.it. Dicevo degli Otto Lab, un collettivo composto da professionisti della creatività, sarà responsabile il 19 maggio, sempre all'Accademia Rufa, dalle 17 alle 20, di un altro workshop, ma invece si esibiranno sempre con la loro installazione, performance dal titolo Punto Zero, venerdì 20, negli spazi dell'ex caserme Guido Reni, nel magazzino 3. E verrà ripetuta due volte, alle 23:15 e alle 00:15, ovvero mezzanotte e un quarto, di quello che ormai sarà sabato 21, il terzo giorno. Già dall'anno scorso lo Spring Attitude è passato da 2 a 3 giorni, avendo anche un programma pomeridiano al sole, al caldo, speriamo, sempre alle caserme Guido Reni nel sabato pomeriggio, ma ne parleremo più in là perché siamo ancora nel pieno del venerdì sera. e passiamo a un personaggio che si distingue per le sue performance assolutamente energetiche, adrenaliniche, io dico testosteroniche, come l'abbiamo potuto vedere un po' di tempo fa a Locomotive, ovvero Cristiano Crisci, clap clap. Dopo Tagli Bebba, dopo le collaborazioni con Populus nel 2015, due lavori, un EP, Camo e Fever, due tracce, questa che stiamo ascoltando è Fever, e poi un altro mini album dal titolo Simple, dove ogni pezzo ha un titolo che inizia con una lettera che compone la parola Simple. Musicista, ma anche un etnografo, con ovviamente lavori sul campo per raccogliere i suoni, le voci del continente africano, e sarà Cristiano Clap Clap a farci ballare dopo Fantadu Prince, nell'orario dove veramente si inizia a ballare di notte, ovvero all'una e tre quarti. Dopo che Fantadu Prince avrà presentato il suo nuovo lavoro, The Triad, o forse The Triad, ancora dei dubbi. E dopo Clap Clap, è vero che in questa trasmissione non abbiamo messo tutti quelli che suonano, perché li abbiamo suonati nelle trasmissioni immediatamente precedenti, per cui gli headliner assoluti R, che suoneranno sabato sera, ovviamente li nomineremo, li avremmo nominati, ma non li suoniamo perché li abbiamo sentiti proprio una delle ultime trasmissioni dedicata a Primavera Sound, non lo suoniamo. Pional non lo suoniamo perché l'abbiamo suonato, visto, salutato, e quindi lo rivedremo ancora a Roma. L'abbiamo suonato nella trasmissione dedicata al Design Week Festival, protagonista lui, Talabot e Marc Pignol del Block Party fatto sotto la pioggia, cioè, quando è suonato lui, no, ancora non pioveva a Milano. E nell'ambito della trasmissione dedicata all'Elite Design Week Festival avevamo nominato diciamo il preview party fatto qui a Bologna, dove c'era ospite Manfredi Romano, ovvero DJ Tennis, ma siccome ci piace molto quello che fa e avevamo passato una canzone bellissimissima che poi ho sentito stanno suonando tutti i grandi DJ che ho sentito poi durante Design Week Festival, l'ultima delle quali Jennifer Cardini, ho deciso di mettercelo in mezzo un'altra volta. Manfredi Romano nel suo EP, in realtà sono due pezzi con due remix, quello che abbiamo sentito l'altra volta era Divisions con il, appunto, il remix danzereccio ad opera di Roman Flügel, e l'altro pezzo è Chirality, remixato invece dai Played, mentre questo è un'edizione editata del pezzo originale fatto da Manfredi Romano, ovvero DJ Tennis, ovvero il boss della Life and Death Records. We'll be right back. E finisce Chirality, che anche qui avevo dei dubbi di pronuncia, quindi sono andata a cercare cos'è, e Chirality è la caratteristica dell'asimmetria, della non simmetricità, per come per esempio la mano viene portato come esempio di chiralità. Dicevo, un altro nome che sarà molto interessante vedere, si tratta di un live set, quello di Ron, ovvero Erwan Castex, francese. Nel marzo scorso ha pubblicato un nuovo EP, scritto tutto in maiuscolo, sarebbe Voodoo, però le ultime due O sono chiuse tra parentesi, abbiamo detto fino allo sfinimento, come sia diventato sempre più importante anche la scrittura, il segno grafico dei nomi di band, canzoni, perché appunto, come ripeto sempre, siamo tendenzialmente sempre davanti a qualcosa, uno schermo del telefono, del computer, di un video eccetera, quindi anche l'aspetto visivo grafico è sempre più importante anche nei nomi dei pezzi, dei dischi eccetera. E Ron ha fatto così per il suo Voodoo EP, cui stiamo sentendo la molto bella atmosferica Dolls, chissà se è ispirata al bellissimissimo film, uno dei miei preferiti in assoluto, di Takeshi Kitano. Musicista attivo dal 2008, che ha anche collaborato recentemente con Jean-Michel Jarre. Finisce il pezzo di Ron nell'ambito della Francia in scena, stagione artistica dell'Institut Français Italia, realizzata su iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia, con il sostegno dell'Institut Français Italia e del Ministero della Cultura, della Comunicazione, eccetera, eccetera. Insomma, tutti gli artisti francesi che partecipano allo Spring Attitude fanno parte appunto di questa rassegna fatta col patrocinio e la collaborazione dell'Istituto per la Cultura francese. Un altro nome attesissimo che ho mancato per diversi motivi, diverse volte, come per esempio al Density quando era in giro con Caribou, e ricorderò sempre che quasi stavo per scrivere alla redazione, quando nella recensione internazionale del suo lavoro chi ha tradotto ha dato per scontato che Jessie Lanza fosse un maschio, invece no, almeno lei, almeno una femmina. Nell'ambito di questa rassegna sono sempre pochissimissimissime le donne rappresentate in questi festival di musica più o meno elettronica. Jessie Lanza, canadese, ha ottenuto un buon successo con il suo esordio Pull My Hair Back e adesso ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Oh No! Questo misto di elettronica, di R&B, di soul, e questo pezzo si chiama Never Enough. Stop. do. Baby, it's all the time. Yeah, it's not enough. It's not enough. It's not enough. It's not enough. It's never enough. Never enough. Never enough. Never enough. It's not enough. It's not enough. It's not enough. It's not enough. You, baby, you know I give it all. Hey. E sarà proprio Jessie Lanza ad aprire le danze main stage dell'ex caserme Guido Reni alle 22, perché invece l'altro palco parte un po' più tardi, un quarto d'ora più tardi, e parte con un trio danese. All'inizio era un progetto personale singolo di Hannes Norvide, danese, e invece adesso si è accompagnato a Loke Rabeck e Malte Fischer, e hanno appena pubblicato anche loro 2016 nuovo album dal titolo Compassion. Questo è il pezzo di apertura, Stardom. Per un gruppo, un disco che ricorda tantissimo il synth pop dei Depeche Mode, Depeche Boys, The New Order, proprio per quel suono di synth che si sente in tanti dei loro pezzi, e per la voce, con Dave Gunn, ancora giovane e poco drogato. Salto indietro nel tempo con il Lust for Youth, questa passione per la giovinezza, Stardom, da Compassion di quest'anno. E come dicevo, loro apriranno la programmazione del Rizla Stage, quindi ricapitolando: Main Stage 22, Jessie Lanza, poi Ron, Panta du Prince, Clap Clap e DJ Tennis, Rizla Stage 22:15 Last for Youth, Dorian Concept, e poi un ritorno anche un paio d'anni fa per l'uscita del suo primo album solista, era a Roma, ci torna da Torino Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, ovvero voce dei torinesi Drink to Me. Anche lui ha fatto appunto un nuovo album, L'ultima festa. Sale, mentre scendo le... le scale. E questo è uno dei video singoli, L'altro mondo. Il sole scalda la faccia, sudo senza la giacca. Guardo foto di un bambino che assomiglia a me. Sfreccio un treno e lo sento, sento lo spostamento. Sento l'aria, chiudo gli occhi ed entro in galleria. Dall'altra parte del mondo c'è un villaggio che brucia. C'è qualcuno che bestemmia sul cavalcavia. C'è qualcuno che bestemmia sul cavalcavia. C'è qualcuno che si spara, c'è la polizia. Guardare attraversando la strada, poi mi perdo nello sguardo di una sconosciuta. Forse sembro uno scemo, rido mentre cammino. In testa una vacanza, una festa, una tempesta. D'improvviso si fa buio. Primo lavoro solista nel 2013, Disordine, poi un album nuovo con i Dream to Me, dove era lo Spring Attitude l'anno scorso, quindi 2014, 15, 16, Marco Jacopo Bianchi a maggio vuole stare a Roma. E finisce L'altro mondo, tratto dall'ultima festa, uscito proprio l'8 aprile scorso. Dopo Cosmo ci sarà il DJ set di Manuel Barros, anzi no, Miguel Barros, ovvero Pional. Ma dopo aver fatto le ore piccole ci sveglieremo un po' con comodo sabato mattina e torneremo alle caserme Guido Reni, dove ci sarà Mensagem não tem fronteiras, guerreiro nunca se esqueça. Se tá na chuva é pra se molhar, então erga a cabeça. Talvez pareça que a dor nunca tem fim, mas a vida também não, irmão. Pra quem tem fé, enfim, ouvir a mim é só uma opção. Sua mente é seu guia, cabe a você tomar a decisão. Secar as lágrimas ou se jogar. Ci sarà il programma pomeridiano. Dalle 14 alle 21 Outdoor Extra, sempre alle caserme Guido Reni, main stage all'aperto, crediamo. Anzi, c'è il main stage che sarà lo stesso della sera prima e poi c'è il Rizla Open Air Stage. Ma quello che noi stiamo ascoltando, Go Do Gong. Si esibirà alle 18.30 al main stage, ma prima ancora sarà sabato sera qui a Bologna, qui a pochi metri da me, per il party di chiusura di Cheap Street Poster Art Festival che si sta svolgendo questi giorni a Bologna. Godugong sarà uno dei protagonisti sabato sera proprio qui al TPO. Milanese Giulio Fonseca, anche lui un paio d'anni fa è stato già lo Spring Attitude, soul, hip hop, nella trasmissione del 2014 avevamo messo un suo pezzo Carry a Flag e poi abbiamo continuato a metterlo nei nostri DJ set, molto molto bello, mentre nel dicembre 2015 ha fatto un altro disco, si chiama 90 per la 42 Records di Colas, Emanuele Colasanti, che vede nel suo roster Cosmo, I Cani, Jolly Mare, insomma bei nomi. E il pezzo che stiamo ascoltando, tratto appunto da 90, si chiama Appena Suma Chance, con la partecipazione del MC brasiliano Tio Scooby. Se transformando, pra muitos o mundo tá acabando, mas o poder ainda tá na mão da minoria, tá ligado? Música de mensagem, se liga aí. Oh! Molto groovy, l'hip hop caldo, old school, che ci piace anche a noi, di Godugong, a cui seguiranno gli Anudo. Tratto dal loro nuovissimo album Zin, questi sono due pezzi mixati da noi, Lovers più All We Are. Devo dire che questo è un po' uno scopiazzamento di Subtract. Come scritto nella nostra presentazione, lo Spring Attitude dà veramente molto spazio alle realtà italiane. Ne abbiamo già sentiti tanti. abbiamo sentito Cosmo, Gong the Gong, Clap Clap, Giorgio Gigli e molti altri ce ne sono, come questo trio piemontese a nudo: Daniele Sciolla, Giacomo Oro, Federico Chiapello, Marte Label. Il sito Red Bull dice: la band italiana più promettente del momento, un matematico, un cantante rock e un pianista classico con passioni rispettivamente per la fisica acustica, la sperimentazione e il punk. Finisce questo mix di due pezzi del loro ultimo album Zin, tutto in maiuscolo, come a nudo, tutto in maiuscolo. Era Lovers e All We Are, loro, diciamo, star della serata 20:15 a Main Stage, ma appunto c'è tutto il programma all'aperto, Rizla Open Air Stage, si parte dalle 14 e ci sarà anche il DJ set di musicista olandese Marco Sterk, nome d'arte Young Marco. Spero che suonerà anche questo pezzo, molto molto bello, è oltre 9 minuti, ho sofferto molto a ridurlo alla metà. Non succede molto in questo pezzo, ma è tutto molto bello. Si chiama The Best I Could Do With What I Had. È il suo pezzo di uno split single con Fatima Yamaha del settembre 2015. Ci piace molto. Young Marco dall'Olanda alle 5 del pomeriggio DJ set Rizla Open Air Stage. E poi ci sarà alle 19.30, diciamo, l'headliner di questo palco all'aperto, Ma Spaventi, ovvero Marco Antonio Spaventi, romano di base Amsterdam, dove fa il sound designer e l'ingegnere del suono e anche docente presso il SEI Institute, che è un istituto di formazione proprio del creative media, quindi tutto quello che riguarda audio, film, animazione, videogame, music business, web, insomma diciamo un'accademia all'università delle nuove tecnologie, delle nuove arti digitali, però appunto fa anche della musica. E ho notato che ci sono molti artisti che vengono da Amsterdam in questa edizione, ma Spaventi, ma fa ridere chiamarlo, ma Marco Antonio Spaventi ha fatto un EP nel 2016, quindi anche questo appena uscito. L'EP si chiama Balla punto esclamativo e questo pezzo si chiama Balla punto esclamativo tra parentesi Aoh Balla. Balla, Aoh Balla, tratto da Balla, per il pomeriggio dell'ultimo giorno di Spring Attitude 2016, Roma, 19-20-21, nelle sedi del Maxi, dell'ex caserme Guidoreni e di una location che continua ad essere insomma una costante dello Spring Attitude e della vita notturna romana, ma ne parleremo tra un po' quando finiremo di presentare la programmazione del sabato pomeriggio dopo Ma Spaventi, anzi in realtà prima di Ma Spaventi e di Young Marco. Si parte alle 2 con l'Open Air Stage all'ex caserme Guidoreni. Prima di Young Marco ci sarà il DJ set di Crystal Clear, irlandese invece di base a Manchester, Deck Lennon, attivo dal 2010, per un misto di funk, soul, house, electro, disco. Uno degli artisti che abbiamo deciso di omettere da questa nostra trasmissione e programmazione, non lo stesso si può dire di La Musa, questo musicista veramente visionario, pazzerello, notato dalla Red Bull Music Academy, anche lui italiano, ha fatto un album quest'anno dal titolo Etruria. Si chiama La Musa, suo nome d'arte, stile psichedelico, imprevedibile, retro, neon tropical, e tratto da contenuto anche in Etruria, ma già pubblicato anche via video nel 2015. Ascoltiamo questo My Friend Aede, non saprei. We'll be right back. la musa nome d'arte di Giampaolo Scapigliati, che anche lui va in giro con questa testa di manichino un po' stile I Love McConnell, tratto da Etruria, anche qui scritto con la U, con il segno grafico che non è un accento, che è come il trattino e la Y al posto della I. Uno di quei talenti assurdi e irregolari che attraversano la scena underground nazionale, ma non tanto underground da non essere notato, come dicevamo, da istituzioni prestigiose come la Red Bull Music Academy. E finisce My Friend Aede, e sarà appunto la musa ad aprire con il suo DJ set la programmazione del sabato pomeriggio alle 14. Ma noi, dopo la fine della programmazione pomeridiana che finisce alle 21, ci spostiamo appunto in un posto che ormai già conosciamo, ovvero al Palazzo dell'Arte Antica, che ospita in parte lo Spazio 900, suo salone enorme di marmi di vittoria memoria nel piazzale Guglielmo Marconi, dove c'è l'obelisco dell'Eur. Main stage interno nel salone e Rizla stage ancora nella saletta, diciamo al piano d'ingresso a destra dell'ingresso di solito. E a partire dalle 22 fino alle 5, gran gala finale, gran serata finale sabato 21 di chiusura, con insomma i nomi un po' più attesi. Come dicevamo, l'headliner della serata sono gli Air, che omettiamo. 23:30 main stage. Ma subito dopo gli Air, DJ set di una istituzione della musica elettronica e dintorni, ovvero Matthew Herbert e i suoi tantissimi alias. Il suo ultimo album pubblicato a nome Herbert è del 2015, si chiama The Shakes, e questo è uno dei pezzi estratti dall'album, si chiama Middle. Herbert, innumerevoli le sue produzioni, le sue collaborazioni a partire dal 96, dal jazz orchestrale alla house, alla musica concreta, e chissà, immagino farà un DJ set molto molto eclettico, speriamo. Seguirà appunto la performance degli Air. Responsabilità di aprire le danze alle 22 main stage dello Spazio 900 sarà di Jacopo Incani. Io sono un cane, from Bugerru to Bologna, e domani sarò più o meno dalle sue parti, dopodomani ancora più vicino. Grandissimo successo con Dai, secondo album per La Trova Robato, un sold out poco tempo fa, Locomotive, e in tutta Italia. Cantautorato sperimentale, progressive, Gaber, Dalla, Animal Collective. Spiaggia, terra, sale, sassi, sole, giorno, i suoi termini, termini dei suoi pezzi, lui molto cari, questo è Paesaggio. Questo pezzo dopo Paesaggio è un po' l'inizio di Mandria, per non troncare la traccia, era troncata di netto. Io sono un cane, di solito da solo, e invece accompagnato in questo tour da altri 4 o 5 musicisti addirittura. Lui aprirà le danze, il main stage, ma dopo invece Matthew Herbert, ci sarà Hune, anche questo. Dovrebbero anche metterci come nei vocabolari come si pronunciano i nomi d'arte, in questo caso di Hun Choi, Corea del Sud, Berlino, Amsterdam, anche lui. Avevo trovato per caso la segnalazione del suo album su un articolo in rete e quindi l'avevo cercato. Si tratta di Hunch Music, quindi musica da gobbi. Musica gobba. E questa è Burning Flower. In molti casi non si tratta di live, si tratta di DJ set, anche in questo caso magari quello che poi suoneranno come DJ non ha niente a che fare con la loro produzione propria come musicisti, ma noi vogliamo comunque dare un'idea della personalità musicale, in questo caso di Huni. We'll be right back. una voce lirica che affiora in questa Burning Flower. Non so se lo sapete, ma i coreani sono appassionatissimi di opera e musica lirica. Ci sono tantissimi giovani talenti di cantanti d'opera, e quindi si vede che anche Hun Choi ha questa passione o questo interesse. Dopo di lui, alle 4:15 nel cuore della notte, un altro talento italiano espatriato, ovvero Alessio Natalizia, già conosciuto anni fa con i Disco Drive e poi per il duo Waltz con Sam Willis, per cui hanno pubblicato per la Compact, e adesso invece con la Diagonal di Oscar Powell, grande suo amico, con cui infatti hanno suonato insieme anche al Club to Club. Quando ho salutato Oscar ho visto anche lui, e infatti nella puntata dedicata a Club to Club passammo un pezzo del suo ultimo album del 2015, Voices. Il pezzo era It Needs No Meditation. In questo caso invece, per questo stile così spigoloso, electro, feroce, a volte con sfumature noise, techno e anche punk, abbiamo scelto uno degli ultimi pezzi dell'album. Si chiama Orange Juice for the Year. Era succo d'arancio per l'orecchio di Not Waving, e invece l'altro palco, l'altra saletta, Rizla Stage, si apre da mezzanotte con un personaggio veramente curioso, sempre con il viso nascosto da una maglietta tenuta su con un berretto da baseball. Si chiama DJ PayPal, quindi molto ironico nel nome. Dopo un EP che si chiamava By Now, ha fatto un album che si chiama Sold Out, e questo appunto è il pezzo di apertura. DJ PayPal, molto stimato dall'etichetta di Flying Lotus, ovvero la Brain Feeder, ma anche dalla Lucky Me, tutta quella scena che vede tra i suoi artisti Azzommo Hoki. È appena uscito finalmente Hopelessness di Anoni, coprodotto musicalmente da lui e da Daniello Patin. Vabbè, Azzommo Hoki e Rusty. E questo appunto è Sold Out, dall'album omonimo Sold Out, DJ PayPal. We'll be right back. DJ PayPal, mezzanotte, Rizla Stage, non so quanta gente ci sarà, visto che contemporaneamente ci saranno gli Air, ma di solito Spazio 900 è così strapieno di gente che anche solo per cambiare aria si fa il doppio scalone e si cambia sala. E un altro personaggio che siamo curiosi molto di vedere è Matilde Davoli. Nome d'arte di Matilde De Rubertis, già conosciuta come componente degli Studio Davoli, poi progetto folk elettronico con Populous, Girl with the Gun, suo conterraneo, immagino. Visto che tra le sue attività, oltre ad essere cantante, strumentista e anche ingegnere del suono al Sud-Est Studio di Campi Salentina, finalmente un album a suo nome, 2015, I'm Calling You From My Dreams, questa è Dust. Tutto il set di Matilde Davoli si svolgerà all'interno del set al piano di sopra DJ set di Matthew Herbert. Insomma, faremo un po' su e giù che con i nostri amici che di solito vediamo a Roma, come Andrea e Alessandra. Ciao! Una cosa importante è che Matilde Davoli è stata selezionata per il Primavera Pro 2016 a Barcellona, ovvero lo showcase per addetti ai lavori, con altri 38 artisti provenienti da tutto il mondo, gli altri italiani, i Sycamore Age e altre DB, quindi insomma un passo importante. E chiudiamo con Viennoise. Cavolo, non ho mai chiesto a Alberto Ricca, conosciuto perché gli ho fatto da autista a Robot e poi rivisto al Club to Club, com'è che si pronuncia il suo nome d'arte. Comunque lui ha fatto un nuovo disco a fine 2015, Meanwhile Tomorrow. Questo è un edit del pezzo che ho preferito, che si chiama Da Vita, da come terza persona del verbo dare vita, Da Vita. Poi pubblica per la White Forest, ma ha anche lui, insieme a un altro gruppo di mattacchioni, un collettivo, un'altra etichetta, la Floating Forest Recordings. Potete trovarlo su Bandcamp, improvvisazioni free jazz, noise, etnica, per sua stessa definizione un branco dei matti. Viennoise suonerà alle 2.30, prima del DJ set conclusivo di Max Graef e Glenn Astro. DJ di base a Berlino, tedeschi. Ma è con Viennoise che noi chiudiamo questa trasmissione dedicata, come ogni anno, allo Spring Attitude Festival di Roma, 19, 20, 21 maggio, Maxi, Caserme Guidoreni, Spazio 900. Noi tra un viaggio e un altro ci saremo. Che dire, buon ascolto con Mighty FM. Viennoise, Spring Attitude. Radio Kairos, ciao da Claudia Mighty.